Mua, mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi Sound check, il suono della musica. Di DJ Jet Telesforo. Sì, siete in contatto con il Groove Master Studio per il soundcheck, la prova del suono di Radio 24. Buonasera a tutti voi da GG Telesforo. Puntata, quella di questa sera, interessante per gli appassionati di questo strumento. Ecco, io ce l'ho qui, fortunatamente siamo nel nostro studio con tutti gli strumenti a disposizione, ma quello strumento lì in particolare nell'angolo è uno dei miei preferiti. Forse è lo strumento che in qualche modo ha avvicinato la mia persona alla musica, strumento molto amato dai bambini, strumento molto odiato dai condomini, e io infatti ricordo che più volte quando ero ragazzino i condomini venivano a bussare a casa per placare la mia energia dietro ai tamburi. Quindi parliamo della batteria, cuore pulsante della ritmica, cuore pulsante della musica di tutti i tempi, soprattutto quella contemporanea, strumento complicato da costruire. E infatti oggi parleremo proprio delle fasi di lavorazione per la creazione della batteria con il maestro liutaio Roberto Villani, che è il nostro ospite. Buonasera e benvenuto. Buonasera, grazie. Roberto, allora, maestro, posso dire liutaio, no? Perché quando si parla di liuteria si pensa sempre a costruttori, sì, sì. Di violini, violoncelli, magari da Cremona. Beh, perché la scuola di liuteria più famosa. Io penso di sì, anche mondo. Se non si parla di chitarre e violini, comunque si ha a che fare con il legno, quindi e strumenti musicali. Quindi ecco, penso proprio di sì. Tu costruisci batterie ormai da tanti anni. Da 10 anni circa. Sì. Da batterista, cioè certo. Hai iniziato a costruirtele, certo, da solo certo. Da batterista. Io ricordo la prima batteria che ho avuto era fatta con i famosi fustini di cartone, no, dei detersivi, vero, per la lavatrice, certo. Vero? Certo. Hai iniziato anche tu? Anche così? Io così, come tutti. Con le padelle? Come piatti, certo. Con i coperchi. Poi a un certo punto hai iniziato a studiarla la batteria. Ma in realtà pochissimo, ho sempre suonato la autodidatta e poi un po' per mancanza di tempo, un po' di fantasia, diciamo così, e sono andato avanti da solo, diciamo. Sei andato avanti da solo, sì. come musicista? Come musicista. Come, certo, musicista. Poi però che cosa è successo? E un bel giorno è successo che mentre suonavo guardavo il tamburo dal punto di vista del batterista, quindi con tutti gli strati, no, che compongono il tamburo, dico ma come... Ti sei fatto la domanda. Come faranno a costruire le batterie? È vero, eh? E avendo io una base, no, personale molto, cioè sono molto curioso di sapere come funzionano le cose, come vengono costruite, ho provato così per gioco a realizzare il primo tamburo. Il primo strumento. In un modo, insomma, abbastanza... Che poi la batteria è uno strumento moderno, insomma. È sì, la prima batteria, certo, è stata costruita all'inizio del secolo, nel senso che i tamburi esistevano, i piatti esistevano, la cassa c'era, però certo, per suonare, diciamo, avere un impatto ritmico completo, sul palco ci dovevano essere 4-5 musicisti soltanto per la parte ritmica. Certo, eh? Certo. E alla fine è stata costruita la batteria, strumento moderno, molto complicato, perché per suonare la batteria c'è bisogno di indipendenza, no? Non solo gli arti, ma proprio il cervello. Certo. Eh? Certo. E quindi le varie fasi di lavorazione per realizzare questo strumento, che poi sono fasi complesse. Sì, eh? Diciamo di sì, insomma. E quanto tempo ci metti a realizzare una batteria? Ma, partendo da zero, quindi proprio dal comprare proprio il materiale, più o meno 20 giorni. 20 giorni. Allora, parleremo di questo oggi con Roberto Villani e direi di andare subito alla musica. Siccome pare che proprio l'invenzione della batteria sia nata a New Orleans, perché a New Orleans, lo sappiamo, ci sono le marching band che accompagnano e scandiscono i ritmi proprio della vita quotidiana, vengono chiamate per i matrimoni, per i battesimi, per i funerali, quindi ci sono le marching band che eseguono il repertorio classico di New Orleans e c'è la famosa seconda linea di rullanti che scandisce quel ritmo che ormai è diventato famoso in tutto il mondo, il ritmo che potrebbe essere anche il punto di congiunzione fra lo swing e la clave cubana così come la conosciamo. Quindi al ritmo di Second Line New Orleans ha creato la sua musica, e in questa prima parte del soundcheck ascolteremo alcuni esempi, e ti voglio far ascoltare un signore che si chiama Big Sam, che era ed è il trombonista di una marching band famosa come Dirty Dozen Brass Band, che invece ha creato il suo organico che si chiama Big Sam's Funky Nation. Il brano si intitola Feet on the Floor, qui al soundcheck di Radio 24. Sound della brass band from New Orleans di Big Sam con Big Sam's Funky Nation, Feet on the Floor. In questa prima parte del nostro soundcheck ascolteremo il ritmo di Second Line tipico di New Orleans, città dove pare sia stata costruita per la prima volta la batteria, proprio perché in 4-5 non entravano sul palco per suonare tutta la parte ritmica, tutta la sezione ritmica, e quindi alla fine qualcuno, non si sa il nome, ma insomma un signore ha messo su vari tamburi e alla fine qualche azienda ha capito che si poteva investire su questo strumento, e quindi sono nate aziende importanti. Esistono marchi che ormai sono una garanzia da tanti anni, per esempio potremmo citare la Greitch per i batteristi di jazz, oppure la Ludwig, che è una batteria rinomata che è stata utilizzata soprattutto negli anni 70 dai batteristi rock, giusto? Certo. Sbaglio nel dire ciò? No, perché chiedo conferma all'esperto, perché oggi il nostro ospite c'è Roberto Villani, che costruisce ormai da anni le sue batterie, ovvero RV Drums. Non sei l'unico in Italia, ci sono altre aziende? No, ce ne sono diverse che comunque fanno questo tipo di lavoro artigianalmente, altre che lo fanno a livello industriale. Ecco, io vorrei citarle. Sì. Posso, ti dispiace? No? Allora, no, insomma, no, perché è bello, perché si conosce il lavoro della liuteria di Cremona per i violini, i violoncelli in tutto il mondo, invece quello degli liutai di batteria è un po', no? Mm-hmm. È meno conosciuto. Questo perché? Diciamo, forse sì. Manca l'esportazione dei nostri strumenti all'estero? È difficile fare la guerra a Greitch. Certamente, vabbè, ma parleremo anche di questo aspetto. Allora, per esempio, a Reggio Calabria viene fatta una batteria che si chiama MC Drums, giusto? Certo. Poi c'è la Daila, che è a Tivoli, come tu sei a Tivoli, sì, no? Sì, il tuo laboratorio è lì. Sì. Poi c'è Drum Sound, batteria che viene realizzata a Torino, la CVL, che è una batteria. Dove si fa la CVL? Credo in Veneto. Poi c'è Drum Art, che invece è specializzata, un'azienda specializzata in rullanti, fa dei bellissimi rullanti. E poi c'è RV Drums di Roberto Villani, che porta le tue iniziali, tanto per non scontentare nessuno. Certo. Allora Roberto, io direi di fare un'altra piccola pausa, andiamo sempre a New Orleans ma con il sound contemporaneo di Nicholas Payton e China Black in Beaches. Love everything. Got to get away. Bitches leading me astray. Bitches from the good Lord's way. Bitches know it's so cliche. Bitches can't ever be passé. Bitches, oh, even on Judgment Day. Bitches, for my soul, please pray. Soundcheck, il suono della musica. Oh, my head, wear them feathers till I'm dead. Hold on steady, hold on steady, hold on steady, hold on steady, hold on steady. Didi's Feathers, la voce di Didi Bridgewater circondata da una ritmica formidabile, sempre per celebrare New Orleans, protagonista di questa prima parte del nostro soundcheck con l'irresistibile ritmo di Second Line. Nostro ospite Roberto Villani, mastro Roberto Villani, liutaio di batterie, e oggi infatti vogliamo raccontare come si costruisce una batteria. Non è una cosa che possono fare tutti, non è come IKEA, no. Allora, partiamo dall'inizio. Vabbè, intanto la tua passione, abbiamo capito, eri batterista, ti sei fatto questa domanda: come si costruisce una batteria? Ecco, da lì poi è venuto fuori il primo pezzo quasi quadrato. È venuto quadrato, ecco, sì. Perché la cosa più importante intanto è la selezione del legno. Certo. Cioè, quali sono i tipi di legno che... I tipi di legno ce ne sono diversi, praticamente tutti si possono utilizzare. Diciamo che i più blasonati sono l'acero, la betulla, il mogano, il pioppo, l'inizio. Degli anni 60 andava moltissimo il pioppo. E quali sono le caratteristiche? Le caratteristiche sono diverse, dipende dal suono che poi vuoi ottenere dal tamburo. Quindi se vuoi un suono più aperto, più armonico, andrai a scegliere l'acero e man mano scendendo verso il mogano e il pioppo per frequenze più basse o medio basse. Ecco, la domanda che sicuramente ti fanno tutti è: come fai a curvare il pezzo di legno? Perché tu quando ordini il legno, come si fa? Tu lo ordini a chi? Dei produttori? Io ho la fortuna di avere vicino il laboratorio il mio fornitore di legname, quindi sì. Che sta a Roma, e prendo dei fogli di acero, per esempio, dello spessore di circa un millimetro. Da lì poi costruisco diversi pannelli di diversi spessori, incrociando, cioè, tagli le dimensioni giuste, incrociando le venature del legno. Come si fa la curvatura del legno? La curvatura viene fatta a mano, a volte bagnando il legno, perché se è troppo duro non ce la fai a piegarlo. Cioè, tieni il legno immerso nell'acqua, no? Sì, diciamo sì. In alcuni casi anche questo, se no viene inumidito con delle spugne. Ma poi la forma come viene data? Ho degli stampi fatti proprio da me in ferro, e li metto dentro gli stampi, chiudo e una volta asciutto il legno e incollato. Ma tu chiaramente lo dici come se fosse una cosa semplicissima. I segreti del mestiere. Ho capito. No, assolutamente. Il tamburo viene formato da questi diversi strati incollati e incrociati. Una volta messo nello stampo, chiaramente incollati con della colla, insomma, apposita. Quanto tempo restano? Dopo circa un giorno, io li lascio un giorno perché preferisco che la colla asciughi per bene. Il tamburo rimane in forma praticamente. E poi da lì parte tutta la fase di... Naturalmente anche a secondo del tipo di legno utilizzato, la batteria ha un costo più o meno alto. Certo. Allora, parlavamo anche dei problemi legati alla distribuzione degli strumenti custom, ovvero gli strumenti artigianali, ma lo diciamo fra pochissimo. Conosci Sly Fifth Ave? No, non credo. Ti faccio sentire una cosa molto forte. Invece Uptown Funk è stato un successo, quel brano lì lo conosci? Te lo faccio sentire in versione marching band per Sly Fifth Ave and the Clubhouse Chamber Orchestra. Attenzione, questa è una cosa, una vera chicca del soundcheck di Radio 24. Uptown Funk. Soundcheck, il suono della musica. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. voce di John Cleary, protagonista di New Orleans, anche lui da sempre, album nuovissimo, Go Go Juice, il brano, una sua composizione intitolata Boneyard, in questa prima parte del soundcheck di oggi, dedicata proprio al ritmo tipico di New Orleans, ovvero il second line. Perché abbiamo scelto il second line? Perché il ritmo di second line è quello creato dalla seconda linea di percussioni, ovvero di rullanti, nelle marching band di New Orleans, proprio per celebrare oggi la batteria, strumento meraviglioso, e ne stiamo parlando con il maestro liutaio Roberto Villani, che costruisce nella bellissima Tivoli in provincia di Roma le sue RV Drums, strumento molto richiesto in questo momento, lo diceva anche lui, dai professionisti, proprio perché potete immaginare il costo di una batteria artigianale per il lavoro che viene fatto, per l'utilizzo di certi materiali, ha comunque un prezzo elevato rispetto alle batterie industriali. Però in questo modo un professionista riesce anche con il lavoro del liutaio a creare il suo strumento personale, avere il suo suono, perché per un musicista la cosa più importante è avere un suono riconoscibile, o no? Certo. In questo modo infatti puoi scegliere i diversi legni per ottenere il suono che più... cioè che cerchi, no? Cosa che, ecco, infatti non puoi avere magari con uno strumento industriale che 100 batterie sono tutte a 100 lo stesso suonano modo. Suonano tutte nello stesso modo. Più o meno. La cosa più difficile per un artigiano, per un liutaio, poi dopo aver costruito i suoi strumenti, è quello di avere una rete di distribuzione. Credo che quella è la cosa più complessa, no? Infatti io non ho scelta questa via, e preferisco più avere il contatto diretto con il cliente, con il musicista, che mi venga proprio a trovare, tu costruisci, che ti vengono a trovare. Però certo. Fortunatamente adesso siamo nell'era digitale, e credo che internet è un bel sito, aiuti molto, sì, no, il lavoro di un artigiano. Chiaramente sì. Quindi che cosa fai? Tu costruisci le batterie e le metti in bella mostra, diciamo, sul sito internet? Diciamo che più che altro realizzo strumenti che mi vengono commissionati. Capita anche, insomma, fare rullanti o set completi, poi magari faccio delle foto. Quindi diciamo che non hai un punto vendita, no, quindi non c'è l'esposizione. No, tu no. Costruisci strumenti solo su ordinazione. Ho solo un punto, uno showroom presso la scuola di Lucrezio De Seta, che è stato nostro ospite. È il mio tester ufficiale. Quindi sei una specie di sarto, su misura. Sartoria artigianale su misura per batteristi. Roberto Villani, nostro ospite, stiamo per chiudere la prima parte del nostro soundcheck, e questi sono un'istituzione lì a New Orleans, la famiglia Neville, che insieme alla famiglia Marsalis hanno praticamente monopolizzato la musica di quella splendida città, dalla quale stanno venendo fuori però anche dei talenti meravigliosi. Mi hai sentito parlare di Christian Scott, trombettista della nuova generazione? Beh, lo farò ascoltare nelle prossime puntate. Comunque eccoli qui, i Neville Brothers con un classico, ecco, questo brano qua, sono due brani della tradizione di New Orleans, Brother John e Aiko Aiko. Praticamente per noi sarebbe come ascoltare O Sole Mio e Decide in Gelo Vui, questa è la verità. Neville Brothers al soundcheck, poi facciamo una breve pausa per l'informazione e torniamo qui dal Groovemaster Studio. Brother John is gone. Sound check. Yes. Il suono della musica. Eccoci dal Groove Master Studio per la seconda parte del Soundcheck, puntata di questa sera dedicata alla batteria, per la presenza in studio del nostro ospite, il mastro liutaio Roberto Villani, che costruisce i suoi strumenti custom, ovvero artigianali, nella bottega di Tivoli in provincia di Roma, strumenti che realizza, questo ce l'hai detto tu, su ordinazione, su misura, è come un sarto. E quindi il batterista viene da te e cosa ti chiede? Diciamo, il primo approccio è il batterista mi chiede consigli sul suono che vuole ottenere, quindi... Quindi a seconda del genere che suona... Esattamente, mi chiede per ottenere il suono tipo il batterista di... cosa devo fare? Allora io lo indirizzo verso un tipo di legno piuttosto che su un altro. Ecco, comunque tu hai dei tamburi già fatti, sì, ho delle... che il musicista può, sì, suonare come prova, certo, no? Certo, certamente, con diversi legni e diverse accordature per far sentire proprio diversi timbri. Allora, tu hai visto il film Whiplash di un paio di anni fa? Non ancora, purtroppo. Beh, è un film meraviglioso, no? Da costruttore di batterie, da ex batterista, dovrei... film che... va visto, perché è un film che tra l'altro ha vinto 3 premi Oscar, interpretato da Miles Teller e dal bravissimo J.K. Simmons, che racconta la storia di questo giovane batterista che studia in un conservatorio di New York, che purtroppo incontra un direttore d'orchestra, ma dire antipatico è poco, insomma, invece di diventare il suo mentore diventa il suo peggior nemico in qualche modo, e mi ha colpito molto, ci sono alcune scene che mi hanno colpito molto, perché nella sua cameretta del conservatorio questo ragazzo ascolta musica, in modo particolare ascolta il lavoro fatto dietro ai tamburi da un batterista chiamato Buddy Rich, che sicuramente conosci perché è stato un innovatore dello strumento, musicista dotato di una tecnica incredibile, e in qualche modo il film si ispira anche a Buddy Rich, perché il ragazzo cerca di rifare Buddy Rich dietro allo strumento, invece l'insegnante rifà Buddy Rich nella vita, perché si raccontano aneddoti terribili di Buddy Rich, soprattutto durante i viaggi in autobus, che fa delle sparate tremende ai componenti della sua big band, li fa piangere, gliene dice di tutti i colori, e veramente anche lui, come fece Joe Jones con Charlie Parker, ha tirato più volte i piatti della sua batteria alle sezioni intere di trombe e di sassofoni. Fatto sta che Buddy Rich fu anche protagonista dal vivo di un aneddoto molto carino che è stato ripreso discograficamente. Buddy Rich aveva una figlia, si chiamava Katie, che allora aveva 12 anni, e a un certo punto la invita sul palco a cantare un classico di Sonny Bono come The Beat Goes On. Ecco, questa è anche la forza di Buddy Rich, batterista di jazz, che però in repertorio metteva anche dei brani un po' più rock, un po' più pop in qualche modo, arrangiati per big band. E allora invita sua figlia Katie, la presenta al pubblico, eccola qui, 12 anni, mia figlia Katie, e probabilmente è anche un po' ubriaca, e questo si sente nella presentazione che Buddy Rich fa proprio adesso per The Beat Goes On, qui al Soundcheck di Radio 24. The Beat Goes On. And this is her first time in front of an audience. Number one, she's 12 and a half years old and she's drunk. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La-di-da-di-dee, la-di-da-di-da. Charleston was once the rage, Soundcheck, il suono della musica. Il suono brano dell'original funky drummer di James Brown, ovvero il meraviglioso Clyde Stubblefield, qui al soundcheck di Radio 24. Questa è la versione di Muro Mix di Funky Drummer. Sì, questo il nome, il nomignolo che affibbiò James Brown al meraviglioso Clyde Stubblefield, musicista che ho conosciuto ma con il quale mi sono anche esibito quando facevamo parte della Go Jazz All Stars di Ben Sidran. E avere Clyde Stubblefield che suonava la batteria alle spalle era non solo un bel sentire ma anche un bel vibrare. Ogni colpo di cassa era come quando vai a vedere i fuochi a Positano. Sì, veramente dei colpi di cannone per Clyde Stubblefield. Tanto è vero che naturalmente l'impatto ritmico di James Brown sul palco era devastante, anche per la presenza non di un batterista come Clyde Stubblefield ma per la presenza di due batteristi, Clyde Stubblefield e l'altro meraviglioso Jabbo Starks. Questo è il soundcheck di Radio 24. Il mastro liutaio Roberto Villani, che costruisce bellissime batterie, è nostro ospite e abbiamo già raccontato tutte le fasi di lavorazione dello strumento. Roberto, allora, ci sono degli aspetti complicati del tuo lavoro, magari legati, che ne so, proprio all'impresa? Sì. Noi siamo su Radio 24, quindi certo. Questi aspetti li analizziamo. Certo. No, comunque ecco, io faccio questo lavoro con un piacere enorme innanzitutto. Gli aspetti dell'impresa, io chiaramente sarebbe bello per me riuscire a distribuire il mio prodotto in larga scala, però di contro c'è che ho paura che poi si possa perdere un po' l'originalità del prodotto stesso, no? Cioè, un conto è fare, per dire, uno strumento al mese perché lavori per il singolo. Sennò poi diventi un'azienda, un'industria. Infatti. Per cui io tendo sempre a fare il. Non dico il minimo, però insomma. Fare le cose con calma senza avere dietro il fiato, no? Ecco, ma visto che tu sei un artigiano, ti sei mai fatto la domanda che ci siamo posti in tanti negli ultimi anni: se la mia azienda invece di essere sul territorio italiano fosse da un'altra parte, come andrebbero le cose? Me la sono fatta perché te la sei fatta, meno male. No, perché tanto la risposta è che probabilmente avrei fatto un percorso diverso, magari stando in America, per esempio. Magari stando in America. Beh, intanto là ci sono più batteristi. Sì. Più batteristi. E musicisti in genere. E musicisti. Allora, torniamo a James Brown, all'impatto ritmico di James Brown su Clyde Stubblefield e Jabbo Starks, Give It Up o Turn It Loose, nella versione remix, ma sempre molto ben realizzata per James Brown. Soundcheck, il suono della musica. Lezione di Jabbo Starks e Clyde Stubblefield è stata presa anche dai batteristi della nuova generazione, fra questi il meraviglioso Questlove, ovvero Amir Thompson, che negli ultimi anni è anche diventato un eccellente producer discografico, e fra i dischi più belli che ha prodotto c'è senz'altro Voodoo di D'Angelo. Anche lui un innovatore per il soul e per l'R&B. Qui abbiamo ascoltato D'Angelo e Questlove in The Root dall'album Voodoo, album che ha praticamente segnato uno dei momenti più alti della carriera di D'Angelo, che ha registrato soltanto 5 album e dopo 13 anni, 14 anni ha tornato ultimamente anche questa nuova produzione, poi di Angelo and the Vanguard, questo è il nome della nuova band, album intitolato The Black Messiah, e questo è un altro groove creato da D'Angelo con Questlove. Adesso dal vivo c'è un altro batterista con D'Angelo che si chiama Chris Daddy Dave, anche lui un innovatore, esperti di questo backbeat, questa nuova pulsazione tipica della black music che i batteristi contemporanei devono conoscere. Il brano si intitola Sugar Daddy, D'Angelo al soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Campione di groove di oggi, Lil John Roberts, batterista residente a Los Angeles, dove pochi mesi fa si è recato anche il nostro Roberto Villani, nostro ospite, maestro liutaio di batterie. Lil John Roberts, residente a Los Angeles, ha iniziato giovanissimo, 15-16 anni, con il jazz e poi col tempo è diventato uno dei groove master del momento. E siamo ai saluti, io ringrazio Roberto Villani per la partecipazione, è stato un piacere vederti. Come hai trovato il mio strumento? In forma, cioè c'è da fare, no? Perché i pianisti ogni tanto devono chiamare l'accordatore per rimettere a posto il pianoforte. Invece, questa è una cosa bella, il fatto di avere uno strumento realizzato artigianalmente ti dà la possibilità di avere a che fare con il costruttore che arriva e fa una visione generale. Sta bene? Sta benino, dai. Sta benino. Cioè, che devo fare? No? Forse. No, ma pure il colore, vabbè. No, vabbè, okay, devo mettere un po' di cera, no? No, va bene. Dimmi tu, perché io ci tengo molto agli strumenti, lo sai, no? È accordata però, perfettamente. È accordatissima. Grazie Roberto, in bocca al lupo per la tua carriera, per il tuo lavoro, e quando vuoi e ti trovi da queste parti ci vieni a trovare, così ci racconti come vanno i tuoi tamburi. Grazie a tutti voi, noi ci risentiamo domani alle 19:15 per il soundcheck nella versione un po' più jazz, non so ancora che cosa vi suonerò domani, ma sono arrivate nuovissime pubblicazioni, quindi ho il tempo di ascoltare qualcosa e di fare una selezione per voi. Chiudiamo con Mark Kohlenburg, batterista di Robert Glasper Experiment, e qui un groove di nuova generazione. Ecco, questo è il groove 2.0, Jungle, stiamo parlando di Jungle, mette a dura prova qualsiasi batterista, Roberto. Allora, il Jungle di Mark Kohlenburg, la voce è quella di Nora Jones, il brano è Let It Ride, e così con Robert Glasper Experiment chiudiamo il soundcheck. Ci risentiamo domani. A tutti voi buona serata da GG Telesforo. Grazie a Roberto Villani. Grazie a te.